questo è il valzer degli sposati, questo è il valzer dell'amore che si balla in tutte le case con la moglie cuore a cuore. Questo è il valzer del matrimonio, dell'amore che viene e che va. Chiudi gli occhi e non pensare, quel che conta è la felicità di mia moglie, son contento, l'ho sposata e non mi pento. Qualche volta alza la cresta, ma vuol bene solo a me. Se tua moglie è bella e buona e comanda da padrona, china il capo e non parlar, devi solo lavorar. Viva la moglie del pescatore, mentre lui pesca lei fa l'amore. Viva la moglie del ciclista, lei fa i capricci, lui corre in pista. Viva la moglie del suonatore, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Viva la moglie Gelsomina, con tutti quanti fa la cretina. Se l'hai presa troppo bella e fa qualche scappatella, vuol dir che hai scelto bene e che a tutti dà piacere. Se una volta t'ha tradito, devi fare il buon marito. Alla fine, credi a me, viene a letto anche con te. Viva la moglie del meridione, se fai il furbo, usa il bastone. Viva la moglie romagnola, senza l'amico si sente sola. Viva la moglie del Don Giovanni, che si difende col battipanni. Viva la moglie generosa, povero uomo, chi se l'è presa? Questo è il valzer degli sposati, questo è il valzer dell'amore che si balla in tutte le case con la moglie cuore a cuore. Questo è il valzer del matrimonio, dell'amore che viene e che va. Chiudi gli occhi e non pensare, quel che conta è la felicità. Quel che conta è la felicità, quel che conta è...